questo martedì 25 ottobre, bene sì, sono ore decisive. È il caso di dirlo proprio per la tenuta del governo, l'accordo sulle pensioni e l'Europa che entro domani ci ha chiesto di prendere misure strutturali, di annunciare un percorso di misure strutturali per rientrare con il debito. Pensioni, duello Berlusconi-Bossi, così titola il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera si tratta sulla riforma delle pensioni, Repubblica, pensioni, governo appeso a un filo. La Stampa, pensioni, la Lega non cede, Libero, la guerra delle pensioni. Il Giornale, al diavolo Sarkozy, insomma non è andata giù quella risatina. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi fa testamento, questo è il titolo di apertura. Per il Messaggero, pensioni, il governo si spacca. L'Unità invece riprende una foto di un balcone di una casa italiana dal quale sventola uno striscione bianco con su scritto dimissioni, mentre il Manifesto titola il coniglio dei ministri, il Consiglio dei Ministri dove ieri c'è stato un nulla di fatto. Ma insomma questo momento decisivo lo vedremo tra poco. Intanto, visto che è il momento di tagliare, recuperare soldi, recuperare euro, cercare di fare qualcosa per far fronte a questa situazione di crisi, il Parlamento invece che fa? Gianantonio Stella e Sergio Rizzo ci raccontano in prima pagina del Corriere della Sera che invece in Parlamento di tagli proprio non se ne vedono all'orizzonte. La Camera ci ripensa, i tagli scherzavamo, questo in prima pagina del Corriere della Sera. O i tagli sono una frottola o pensano che i parlamentari dimezzati costeranno il doppio, in ogni caso pensano che i cittadini siano così grulli da non vedere la truffa. Eccolo qui, raccontano Stella e Rizzo la nuova vicenda che insomma secondo loro dovrebbe fare un po' imbarazzare il nostro Parlamento. La lettera arrivata sul tavolo di Giulio Tremonti qualche giorno fa, mentre si diffondevano le voci che la doppia manovra economica non basterà alla vigilia del nuovo pressing di Bruxelles, è questa. Signor Ministro, per incarico del Presidente della Camera dei Deputati le comunico che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di mantenere l'importo della dotazione per l'anno finanziario 2014 nella medesima misura già prevista per gli anni 2012 e 2013. L'importo della dotazione richiesta per ciascun anno del triennio 2012-2014 è quindi pari a 992 milioni di euro. Cioè, firmato il segretario generale Ugo Zampetti, una richiesta sfacciata, scrivono Rizzo e Stella, per ogni anno la Camera, anche per il 2014, ha bisogno, caro Giulio Tremonti, di 992 milioni di euro. Come per il 2012, come per il 2013, anche nel 2014. Cioè non rinunciamo di un euro. Semplicemente avvilente, scrivono Stella e Rizzo, il raffronto con un'istituzione paragonabile, la britannica House of Commons, che di deputati ne ha 650, 20 in più dei nostri, ma richiede un livello di spese di 500 milioni di euro, meno della metà o quasi la metà dei 992 milioni richiesti da Montecitorio. Domanda: perché lassù, dove morde la stessa crisi, il trattamento delle Camere allineato a quello di tutta l'amministrazione, da noi no? Cosa c'entra nei costi della democrazia? E poi, guardate, l'ultimo invece incredibile provvedimento di cui si discuterà adesso in Parlamento è questo. Ieri pomeriggio è arrivata la ciliegina sulla torta. Per gli assenteisti in commissione sarà decurtata la diaria. E vabbè, e qui, insomma, uno non si presenta, meno stipendio. Mentre per, attenzione, i sempre presenti ci sarà un incentivo. Saranno queste le misure in discussione oggi all'Ufficio di Presidenza della Camera. Traduzione: i parlamentari pagati per stare in Parlamento, se staranno sul serio in Parlamento, verranno pagati di più. Un capolavoro. Possiamo sommessamente ricordare che un ritocco così piacerebbe anche ai maestri, più soldi se vanno a scuola, agli autisti d'autobus, più soldi se si mettono al volante, ai centralinisti, più soldi se rispondono al centralino, e così via. Diranno, non ci sono i soldi. Appunto. Ecco, Stella e Rizzo raccontano in questo articolo: spese invariate per il Parlamento, niente sacrifici. questa vicenda, mentre si discute appunto di recuperare soldi e come. Allora, io non ne ho mai parlato, ma adesso bisogna farlo perché c'è un'inchiesta e i giornali ne parlano. Un video che molti in Italia hanno cercato, e non fate i fessi perché sapete benissimo di quello di cui stiamo parlando, il video che ritrae Belen durante un rapporto sessuale. Si è diffusa questa voce e si è diffuso il video, non si parla d'altro nei consessi privati, insomma tu l'hai visto, tu non l'hai visto, tu dove l'hai cercato, tu dove l'hai trovato, eccetera. Ebbene, il problema è questo, attenzione, perché la Procura di Milano adesso ha aperto un'inchiesta sul video hot di Belen, a pagina 19 del Quotidiano Nazionale, ma è anche sul Messaggero, è in prima pagina del Secolo XIX, che titola così: tutti pedofili per colpa di Belen. Ebbene sì, perché pedofili? Perché Belen ritratta in quel video sarebbe ritratta all'età di 17 anni e dunque minorenne, e dunque la diffusione di quel materiale è, per la Procura di Milano, per le leggi italiane, diffusione di materiale pedopornografico. E dunque la Procura di Milano ha deciso di andare a cercare chi ha messo in rete questo video per accusarlo appunto di diffusione di materiale pedopornografico. Inchiesta sul video hot di Belen per i PM è pedopornografia, caccia chi ha messo il filmato in rete. Lei era minorenne. Allora, alle 7:34 minuti, tuffiamoci nella lettura dei giornali dedicata alla questione pensioni, alla tensione all'interno del governo. La domanda che si pongono tutti oggi è: ma insomma, ci sarà su questo una Lega che terrà duro fino addirittura alla crisi di governo? Perché l'Europa ci ha chiesto entro domani di dare delle risposte sulle misure che vogliamo intraprendere per cercare di rilanciare l'Italia. Berlusconi subito aveva detto le pensioni, sulle pensioni c'è il no della Lega. Ieri il Consiglio dei Ministri di fatto è stato un fallimento, nel senso non si è deciso nulla. E allora oggi forse è il caso di aprire proprio dalla lettura della Padania come titolo: scontro finale sulle pensioni. Oggi il D-Day, così titola la Padania. No all'innalzamento dell'età pensionabile. Ricordatevi bene questa frase: no all'innalzamento dell'età pensionabile, perché tra poco la approfondiremo sugli altri giornali. E beh, insomma, sulle pensioni, il muro di Bossi, questo è il titolo molto efficace di pagina 3 del Sole 24 Ore. Il Premier non convince l'alleato sull'età a 67 anni. Nulla di fatto in Consiglio dei Ministri, il governo è a rischio. Il Consiglio dei Ministri, convocato d'urgenza, scrive Barbara Fiammeri, all'indomani dell'ultimatum di Bruxelles si è risolto in un nulla di fatto. La Lega sulle pensioni è disposta ad aprire la crisi. Bossi lo ha detto e ripetuto a Berlusconi prima e dopo la riunione di Palazzo Chigi. E tra l'altro, eccola qui questa frase, insomma, la Padania però titola, fa notare il Corriere della Sera, pagina 5, nell'articolo di Marco Cremonesi, che è colui del Corriere sempre attento a quello che succede nel mondo della Lega. In realtà la Padania titola con questa frase che fa significare che la partita non è proprio chiusa. Scontro finale sulle pensioni, ma no all'innalzamento dell'età pensionabile. Parole dure che sembrano lasciare ben pochi margini, eppure quella definitiva sarebbe una seconda versione, perché pare che il titolo originale fossero pensioni Lega irremovibile. L'idea è proprio quella, forse l'innalzamento dell'età non sta bene a Bossi, ma chissà, magari si possono toccare altre cose e trovare una via d'uscita per quel che riguarda le pensioni. Ci sono quali margini di un ritocco? Il no all'innalzamento dell'età pensionabile è altra cosa rispetto alla questione delle pensioni d'anzianità. Il punto però non è tecnico ma politico, fa sapere anche Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Insomma, ci si è un po' tutti appesi a questa frase, cercare di capire qual è la strategia, se Bossi vuole davvero tenere duro e fare andare una crisi di governo, oppure se sono schermaglie per poi arrivare all'ultimo chilometro, all'ultimo metro, a una sorta di accordo e tenere duro, di cercare di dire no, l'età pensionabile non si tocca perché c'è un elettorato di persone che deve andare in pensione, andrà in pensione nei prossimi anni, e quindi questi ce li giocheremmo come voti. Se si può invece giocare su altri tipi di ritocchi, altri tipi di interventi. Sta di fatto che ieri in Consiglio dei Ministri, questo secondo tutti i giornali, pare che sia andata in onda questa formula da parte del Premier Berlusconi, che a Bossi ha detto: guarda che o me o la fine, cioè cado io, cadi tu, cadiamo tutti. Nonostante questo aver messo le spalle al muro, con le spalle al muro Bossi per il momento non ha ceduto, e anche sulla stampa il titolo è questo, l'appello al senatur del Premier è questo: attento, se cadiamo non si salva nessuno. Tra l'altro, finito il Consiglio dei Ministri con nulla di fatto, c'è stata una lunga cena finita nella notte con alcuni ministri, con Maroni, con Bossi, con Berlusconi, con Matteoli, con altri ministri, insomma con tutti esponenti del governo, per cercare di fare una trattativa da sbloccare. E attenzione, perché sui giornali rispunta ora la questione di un possibile cambio di governo, di una questione di un cambio di governo, non tanto il governo tecnico, ma un cambio di governo, proprio un cambio alla guida del governo, cioè il famoso passo indietro di Berlusconi per cedere spazio a una persona di profilo, come dire, più considerato super partes, e quando si pensa a questo si pensa sempre a Gianni Letta. Questa ipotesi c'è su tutti i giornali, a cominciare dal Corriere della Sera. L'incontro al Colle e l'ombra del cambio, Marzio Breda racconta come è andato il faccia a faccia tra Silvio Berlusconi ieri e il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Nel colloquio per la prima volta è spuntata l'ipotesi di un nuovo governo senza il Cavaliere, un'ansia preoccupata che sembra virare verso la sfiducia, le recriminazioni di chi si sente pressato da ogni parte, un umor nero aggravato dall'umiliante schiaffo delle ironie franco-tedesche di domenica a Bruxelles, ma anche, nonostante il grande allarme, la voglia di provare a rispondere, di riannodare i fili. Così si è presentato ieri Berlusconi, ma per la prima volta, ed è la prima volta che succede, l'uomo del fare, abituato a spargere sempre intorno a sé ottimismo, ha ieri esplicitamente ammesso davanti a Napolitano le proprie difficoltà. Di più, nel colloquio di mezzogiorno al Quirinale si è materializzata l'ipotesi di un suo passo indietro per far nascere un governo alternativo, non guidato da lui ma con la stessa maggioranza, magari allargata all'UDC. Eppure questo è accaduto per la prima volta, un'ipotesi clamorosa di cui l'intero centrodestra ha discusso fino a tarda notte, ragionando su Gianni Letta o su Renato Schifani come due possibili candidati premier in uno scenario che è ormai di quasi crisi. E guardate, il Secolo XIX mette a pagina, in prima pagina, e poi continua a pagina 3, addirittura secondo il Secolo ci sarebbe stata una telefonata tra Berlusconi e Gianni Letta, con Berlusconi che ha chiamato Letta per dirgli: forse tocca a te. Gianni, sei pronto? Se te la senti di provarci, per me va bene, ma vediamo come si chiude la partita con la Lega, ha spiegato al Cavaliere Gianni Letta. Berlusconi si è irrigidito, non l'ha presa bene, ma ha capito che in questo momento vanno considerate tutte le ipotesi sul tavolo. E insomma, pare addirittura, secondo il Secolo, ma qui entriamo appunto nel retroscena, che Berlusconi avrebbe già detto a Gianni Letta: guarda che potrebbe succedere, se questa partita sulle pensioni non funziona e quindi c'è il rischio di una crisi, che io possa fare un passo indietro, e dunque potrebbe toccare a te a portare avanti il governo, che è un modo per mantenere la legislatura in vita con un cambio di premiership fino al 2013. Siamo tutto nell'ambito delle speculazioni, di retroscena, di quello che, insomma, dei momenti d'attesa. Oggi è il giorno, il D-Day, come titolano sulla Padania, il giorno del giudizio, e quindi vedremo. D'altronde domani Berlusconi andrà in Europa, e dovrà dare le risposte che Farron poi, il presidente, ha chiesto. Entro mercoledì l'Italia deve dirci in quale direzione vuole prendere, che direzione vuole prendere dal punto di vista delle riforme, e quindi entro 24 ore dovremo dare delle risposte. Il Sole 24 Ore rispolvera quel dato che da un paio di giorni, per la verità, aveva già tirato fuori, che fa capire anche il perché del no politico della Lega alla questione delle pensioni. Il 65% delle anzianità va al nord. Gianni Trovati ne scrive a pagina 10: c'è un dato che spiega meglio di ogni ragionamento politico la posizione della Lega sulle pensioni. Gli assegni di anzianità per ragioni occupazionali e distribuzione delle attività produttive oggi vengono pagati soprattutto al nord. E dunque cedere su questo punto per la Lega è una penalizzazione dell'elettorato. I numeri sono questi: quasi 4 milioni gli assegni di anzianità erogati ogni mese dall'INPS, per due terzi si concentrano nelle regioni del nord. La Lombardia da sola ne accumula quasi 1 milione, mentre al sud la prevalenza è quella netta degli assegni sociali e quelli destinati all'invalidità civile. E dunque ecco perché la Lega tiene duro su questo. Tra l'altro, il Messaggero fa notare anche con una certa malizia, con Mario Aiello a pagina 4, sempre su questa analisi del 65% delle pensioni al nord, che ci sono anche il record delle baby pensioni al nord, e tra le baby pensionate c'è anche, e qui appunto il Messaggero è malizioso e parla dunque di difesa anche familistica, la moglie di Bossi, Manuela Marrone, baby pensionata dal 92, da quando alla tenera età di 39 anni decise di ritirarsi dall'insegnamento, per poi aprire una scuola nel 98 a Varese, che nella legge finanziaria del 2010 in tempo di tagli ha ricevuto 800.000 euro di contributi pubblici. Insomma, una baby pensionata, e dunque si difende anche per quello. Il Libero dice: tagliate i vitalizi dei parlamentari. Insomma, ognuno poi ha la propria ricetta. Sta di fatto che invece c'è l'altro tema, che è quello delle sanatorie fiscali, che sono rispuntate. Il rischio o la possibilità di sanatorie fiscali, c'è un giallo di possibili 12 condoni, questo scrivono tutti i giornali. Slitta il decreto, tensione sui condoni, questo è il titolo a pagina 2 del Sole 24 Ore. Rispuntano 12 sanatorie, poi la nuova smentita. Insomma, si naviga un po' a vista. Secondo Repubblica c'era anche un concordato e una sanatoria in vista per il canone della RAI, per chi non ha pagato il canone della RAI. Ma insomma, è tutto un po' un giallo. Come invece un giallo che secondo qualcuno, e per il Fatto Quotidiano per esempio, è la nuova legge ad personam che starebbe studiando Berlusconi, è la questione, una nuova legge che cambia, vorrebbe cambiare, questo nel decreto dello sviluppo, le normative che regolano l'eredità, in particolare in quella parte che si chiama la legittima. Tanto che qualcuno dice, il Fatto Quotidiano titola addirittura così: Berlusconi fa testamento. Di cosa si tratta? Lo vediamo tra poco. E allora, di cosa si tratta? Secondo Repubblica, secondo il Fatto Quotidiano, è certamente ormai chiaro, è la nuova legge ad personam che si vuole fare Berlusconi. E nel decreto sviluppo, Ettore Livini ne scrive a pagina 6 di Repubblica: il diavolo sta nei dettagli, e tra le pieghe del decreto sviluppo imposto all'Italia da Berlino e Parigi si nasconde la 40ª legge ad personam dell'era Berlusconi, già soprannominata la norma anti-Veronica, cioè Veronica Lario. È una norma che modifica la questione della legittima per quel che riguarda i testamenti. L'articolo 542 conferma che alla moglie spetta un quarto dell'eredità e ai figli la metà, ma i margini di manovra di chi redige il testamento raddoppiano. Infatti, del 50% riservato ai figli, solo la metà va divisa in parti uguali. Il resto può essere distribuito a piacere a uno o più di loro a sua scelta. In soldoni, scrive Repubblica, oggi Silvio Berlusconi ha in mano un jolly pari al 15,9% di Fininvest, che non gli consente di sparigliare le carte e fa pendere l'ago della bilancia nel risico di Arcore verso la seconda moglie. Se la bozza diventerà legge, invece, il premier avrà a disposizione il 31,74% e a decidere chi terrà in futuro le redini dell'impero di casa sarà solo lui. Ora, ovviamente, questa è l'interpretazione di Repubblica, ma anche l'interpretazione del Fatto Quotidiano, tanto che il titolo del Fatto Quotidiano di apertura è questo: Berlusconi fa testamento, il premier di un governo già morto vuole una legge ad personam sulle successioni per fregare Veronica. Ecco a cosa serve il decreto, questa è la pagina 3, a sistemare l'eredità di Berlusconi. Nella bozza c'è una norma che garantirebbe il controllo di Fininvest a Marina e Pier Silvio, vale a dire i due figli avuti dalla prima moglie. Siamo anche qui, retroscena, pettegolezzi, polemiche, verità. Chi lo sa, sono momenti difficili, momenti in cui Sarkozy e la Merkel ridono. Poi oggi hanno fatto sapere, ieri in realtà, che le risate non erano su di noi, ma erano così, sogghignavano tra di loro per chi dei due dovesse rispondere. Versione poco credibile, insomma, i risolini di Sarkozy appena il giornalista francese ha fatto la domanda sull'Italia erano chiaramente non rivolti alla Merkel su chi debba rispondere, ma evidentemente erano risatine così, insomma, non lo so perché Sarkozy ha sorriso. Sta di fatto che Giuliano Ferrara la prende come al solito di petto e quindi scrive oggi un editoriale sul Foglio dicendo: una risata a Piazza Farnese, risposta dell'Italia sana al sarcasmo del disastroso Sarkozy. Insomma, oggi appuntamento alle 17 a Piazza Farnese davanti all'ambasciata francese in Italia con molti tricolori bianchi, rossi e blu, amici e amici della verità, per farsi una grassa risata. Sul Sole 24 Ore due commentatori, Carlo Bastasin, cara Angela, e Adriana Cerretelli, caro Nicolà. Insomma, due lettere, due domande, anche domande indiscrete ai due leader, che certo forse hanno messo il dito nella piaga delle difficoltà italiane, ma anche loro sono un po' in difficoltà. Su Libero, 10 motivi per ridere del burlone Sarkozy, raccolgono un po' le varie gaffe internazionali che lui ha fatto in questi anni. Sta di fatto, insomma, che è ripartita un'altra battaglia Italia-Francia, politica e non solo. Segnalo dall'estero, per il secondo giorno consecutivo, le voci molto poco concilianti che provengono dalla Libia. Lorenzo Cremonesi è riuscito questa volta a fare un breve scambio di battute con Mustafa Abdel Jalil, vale a dire il premier ad interim del Consiglio Nazionale Transitorio, che ha detto: il mio riferimento alla Sharia, cioè alla legge islamica, non significa che aboliremo tutte le leggi, semplicemente cambieremo quelle che contraddicono l'Islam. Per me la poligamia è stata un esempio, come del resto l'accenno ai futuri regolamenti contro il principio del tasso di interesse sul denaro prestato dagli istituti di credito. E sulla poligamia Jalil dice: per noi viene prima la legge islamica, poi la Costituzione con le sue indicazioni di massima, infine le leggi specifiche. Sulla questione dei matrimoni è chiaro che per noi musulmani è possibile avere più di una moglie e ciò sarà in Libia. Dunque arriva la poligamia in Libia e tutti a chiedersi, anche nel commento di Francesca Paci sulla Stampa, se Allah diventa la legge. Tutti a chiederci questa domanda, insomma, se coloro che ci saranno nella nuova Libia ora saranno migliori di colui che c'è stato nella vecchia Libia. Una domanda legittima, insomma, che pone delle giuste preoccupazioni. Tra l'altro Gheddafi, che, e con questo concludo, fa sapere un giornale internazionale, Paris Match, giornale francese, aveva cercato nell'agosto, in piena guerra, proprio con un messaggio affidato a Alessandro Londero, vale a dire colui che gestiva le agenzie di hostess, le ricordate, le Gheddafine, aveva mandato un messaggio per Silvio Berlusconi, un messaggio di disperazione, del tipo: non ti biasimo per la guerra, ma stanno uccidendo i nostri bambini, fai qualcosa, evita questa sciagura. Non si sa se Berlusconi abbia mai risposto, credo proprio di no. Comunque l'ultima lettera del colonnello era proprio per Silvio Berlusconi. Ci fermiamo, è tempo di giornale radio.